stanno per scoccare le ore 21 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Ultimo appuntamento per quanto riguarda questo spazio per il 2020. Infatti oggi è 30 dicembre 2020 e vado a salutare Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo. In Sardegna gli onnipresente Maia e Nicola Locci. In Val d'Aosta Jean-Claude Oberto. Francesco a Bergamo, Marco qui a Roma come Ilaria, Laura Vilded da Milano, il medico della peste, anche lui ormai un affezionato ascoltatore di questi spazi. Gianluca Becuzzi, ormai chi non lo conosce a Gianluca Becuzzi, un pezzo di storia della scena sperimentale italiana. Boschivo, Manu Boschivo, Emanuele dalle Marche. Il sito della radio è www.ondarossa.info. Domani sul sito di questa radio e sulle pagine Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder, oltre che su quella diciamo più personale, naturalmente ci sarà la registrazione di questo programma. Saluto Like & Wake e vado ad iniziare Like & Wake, anche lui valente progetto Dark Ambient romano, e proprio con il Dark Ambient andiamo ad iniziare con un artista veneziano, Eugene Vintras, meglio conosciuto come Digin. Ambient decisamente sepolcrale. E questo lungo discorso che iniziò nel 2002 iniziò con Kataros, questo lavoro che uscì attraverso la Slaughter Productions di Marco Corbelli. Questa sera ci ascoltiamo 237 e The Night of Silence. Is there something bad here? Well, you know, Doc, what something happens, if you leave a trace of yourself behind. Say, like, ancora Digin da Venezia, Kataros, una traccia decisamente più martial, questa che è partita Aurora. Un saluto a Eugene Vintras del progetto Digin, con il quale abbiamo iniziato questa puntata di prove tecniche di trasmissione. Era Kataros, album del 2002, il suo esordio. Climi malsani che pervadono questi drones così ferali e cimiteriali. I quali vado a salutare Enrico Cerrato di Petrolio, Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster di Bipit, Alessandra Dotto in un paesino fiamignano in provincia di Rieti al confine con l'Abruzzo, Nicola Locci di nuovo, Andy Rivieni di Attualità Nera e tante altre cosine molto interessanti nel campo dell'industrial noise, al pari di Wurnus Island. Maria qui a Roma, Dario Righi in Toscana, progetto No Name. Cristiano Bocci e Mara Lepore in Toscana, Chemical Resistance e l'ottima arte pianistica di Mara Lepore, che abbiamo apprezzato, anzi che apprezzeremo, l'ho apprezzata in privato ma la manderò presto in anagrammi, un lavoro molto interessante che vede anche la partecipazione di Cristiano Bocci. Cercherò di reperire altro materiale di Digin, personalmente ho solo questo catalogo, mi darò un po' da fare per far conoscere meglio questo artista validissimo dell'area dark ambient italiana. Noi ce ne andiamo in Scandinavia, in Finlandia, esattamente con gli Echler. Ma dietro a tutto ciò c'è Raffaele Pezzella e la sua instancabile attività, questa volta attraverso la Zero K, la sua terza label fondata, che si sviluppa e si occupa soprattutto di dischi a base, diciamo, cinematica, scientifica. E in questo specifico c'è questa compilation dal nome Music for Abandoned Cold War Places, un album che cerca di ricreare le suggestioni che emanano, diciamo, le archeologie industriali provenienti dalla Seconda Guerra Mondiale o dalla Guerra Fredda direttamente, come dice il titolo. Quindi Echler con Arc Dio Mirror Floor e Club con Hidden Listening Station. Più o meno i stessi climi di Hechler sono presenti in questa Hidden Listening Station dello spagnolo Club, sempre dalla medesima compilation della Zero K, Music for Abandoned Cold War Places. Una prima mezz'oretta dunque dedicata a queste suggestioni siderali, ambient, al confine con l'isolazionismo, anche nel caso dello spagnolo Club. Daniel Ferreira, spagnolo con un passato addirittura nell'house music, finché poi nel 2010 ha radicalmente cambiato visioni musicali andando un po' a fondare questo Club, del quale naturalmente esiste un riferimento Bandcamp da andare a visitare e sentire. Saluto dunque Andri Vieni di Attualità Nera e Sera K.O. Fontana di Progetto Non M insieme a Dario Arrighi. Cambiamo leggermente suono e passiamo a un piccolo cameo ad opera di Cristiano Bocci e Mara Lepore. Cristiano Bocci, come ho già detto, lo apprezziamo, lo abbiamo apprezzato con Chemical Resistance e Duo Serpe. Mara Lepore lo apprezzeremo in un disco che presto manderò, apprezzeremo la sua abilità pianistica. Il regalino in questione porta il nome di We Wish You a Doomy Christmas, andando un po' a rivisitare in maniera tra l'ironico e il macabro un vecchio tormentone natalizio che spesso ha oberato pesantemente l'umore di tanti di noi. Sicuramente la versione che ci dona Cristiano e Mara, che vado a salutare, è più accattivante, quindi ci andiamo ad ascoltare questa We Wish You a Doomy Christmas. Gustosissima questa We Wish You a Doomy Christmas, un com'è un regalino che ci ha donato Cristiano Bocci, che al pari di Adriano Maiocco è nei Chemical Resistance, ormai molti lo conosceranno, insieme all'abilità pianistica di Mara Lepore. La si può trovare sul profilo Bandcamp, naturalmente basta cercare, la si trova subito. Finiamo con oggi il nostro salto sentimentale nel passato dei Coil, giustamente celebrati in queste lunghe puntate attraverso Sonway, il loro doppio CD di vecchie tracce inedite dal 93 al 96. Ascolteremo uno dei passaggi più elettronici e più, come dire, veloci da questo punto di vista, dal nome MS Blade, il tutto estratto dal secondo CD Swanyard, per i nostri carissimi Coil. Thank you. erano i Remida dell'industrial, nel senso che i Coil qualsiasi cosa toccavano diventava oro. Abilissimi anche nell'elettronica al confine con l'house music, con l'acid music, una sorta di enciclopedia a 360 gradi per quanto riguarda la musica. I Coil di John Balance e Peter Christofferson, neanche stata dimostrazione questo Heaven's Blade, estratto da Swanyard, album uscito l'anno scorso nel 2019. Intanto vado a salutare il buon Christian, affezionatissimo ascoltatore nonché sottoscrittore, sostenitore di Radio Onda Rossa. Andiamo avanti e torniamo ai giorni nostri con invece il vivente Dirk Evans, qui alle prese con i suoi Dive, una delle sue creature ormai trentennali, già che il primo album di Dive, il first album, fu del 1990, a ridosso della fine dell'esperienza clinic e poi successivamente ripresa. Where Do We Go From Here? Questo è il titolo dell'ultimo album per l'Auto Line di Berlino e ci ascoltiamo Slave to Desire e Leave Me Be. Slave to desire. non sbaglia un colpo e vabbè che io sono dichiaratamente di parte, ma Where Do We Go From Here è un'ennesima pagina gloriosissima e intensa per quanto riguarda Dive con Dirk Evans, tuttofare a musica e testi. Due tracce dove il tema della costrizione a vari livelli è protagonista. Slave to Desire, che finiva con Will Never Slave, e Leaving Me Be, Lasciatemi Essere. Dive. Dirk Evans lo stiamo ascoltando e apprezzando anche in Disorder con il suo progetto parallelo Motor K, tra psichedelia e kraut rock, dove lì non canta ma suona synth e chitarra elettrica. Un saluto di nuovo ad Alessandra e i suoi simpatici GIFs. Mentre noi andiamo un po' a ritirar fuori un pezzo di storia che riguarda anche qui Roma. E dico Roma perché purtroppo recentemente ho scoperto che gli Esplendor Geometrico si esibirono qui a Roma, addirittura all'Aula Magna dell'Università, il 24 marzo del 1986, quando io personalmente ancora non ero ben cosciente del fenomeno Esplendor Geometrico. Ne fecero una cassetta ed è stato fatto anche un CD attraverso la Captain Trip Records, etichetta giapponese addirittura, rimasterizzato e reso più udibile. Questo è Esplendor Geometrico N Roma, titolo completo. Ci ascoltiamo Bianco de Fuerza 2, Halo Terre e Tribuna Robotnica 1.